storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera amici ascoltatori, buonasera e anche buona Pasqua, anche se è quasi finita, da parte di Gesi e di Antonio. Vabbè, auguriamo anche buona Pasquetta. Naturalmente. Speriamo che tutto vada bene, che passino delle buone feste e che siano tutti felici e contenti. Ecco Antonio, a te la parola. Allora, un cordiale benvenuto alle amiche e gli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it. Il numero di telefono per sms, consigli, proposte, suggerimenti, critiche anche naturalmente è il 346 23 20 033. È anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare naturalmente un cordiale saluto al nostro regista. Certo, ho critiche che siano costruttive. Sono sempre ben accette. Appunto. Allora stasera abbiamo in studio il signor Beppe Fantin. Buonasera Beppe. Buonasera Beppe. Buonasera. E bentornato. Bentornato. Grazie. Bentornato. E approfitto anche per dare la buonasera a tutti e a tutti auguro una buona Pasqua, sperando che sia anche l'insegna del sole e del buon tempo e del bel tempo. Beh, insomma, si vorrebbe, vabbè. Comunque sì, È vero. Va bene, va bene. Allora, incominciamo con una canzone per così per augurare sempre una buona Pasqua a tutti. È una canzone che penso di non aver mai fatto ascoltare nelle mie trasmissioni ed è Solo Grazie, cantata da Giuseppe Cionfoli. Fu per gioco, simpatia, per amore o nostalgia, che quella sera ti ho scritto una canzone. O la paura che sentivo mi conduceva assai lontano e percorrevo sentieri già battuti. Tristezza amara era la mia, spinta solo da pazzia, che tende a ricordare solo ieri. E non capivo che parlavi e mi tenevi stretto al cuore come un bimbo appena nato ero per te. Ma poi ti ho scritto solo grazie per avermi dato tu la vita. Ti ho scritto amore, solo amore, sì, sei tu il mio signore, sei solo tu, sei solo tu. Momenti bui sono i miei, previsti solo nel finale, che mettono la mente nel cantiere. Riflessioni da bambino e mi vedo da lontano e non capisco perché mi cerchi tu, Signore. Posso anche amarti, posso anche lodarti, ma non so che valore ha la mia preghiera. E mi sforzo di capire e mi pare di sentire, ti ho cercato, ti ho trovato, ti ho amato. Ma poi ti ho scritto solo grazie per avermi dato tu la vita. Ti ho scritto amore, solo amore, sì, sei tu il mio Signore, sei solo tu, sei solo tu. Ma poi ti ho scritto solo grazie per avermi dato tu la vita. ho scritto amore, solo amore, sì, sei tu il mio signore, sei solo tu, sei solo tu. Eccoci di nuovo in studio e così parliamo un po' col nostro ospite che è Beppe Fantin, musicista e anche scrittore, poeta, vero Beppe? Sì, hai scritto prima, un libro. Prima sono partito con la musica, poi... Ah, prima con la musica? Prima con la musica, con le canzoni, che comunque ho sempre fatto canzoni scritte da me, dopodiché ho deciso di scrivere... Hai scritto anche un libro? Ho scritto questo libro, sì. Anche se il tempo è passato? Sì. Allora, diamo subito un saggio, Antonio. Sì, il titolo ricalca esattamente quello del libro. Anche se il tempo è passato. Anche se il tempo è passato, non voglio dimenticare quello che è stato. Ricordo le gioie e i dolori, le fantasie dell'adolescenza e l'emozione dei primi amori acerbi, aspri, amari, euforici ma a volte tormentati. Nonostante la giovane età. Anche se il tempo è passato, non dimentico quella pelle liscia e vellutata, sostituita ora da qualche ruga che gli anni hanno lasciato. Il tempo ha marcato gli occhi e sbiadito il sorriso, divenuto più malinconico. Quel tempo mi ha regalato l'odore del frumento di quelle dolci, calde estati. Il tempo che ha lasciato dentro di me la voglia d'inverno, di freddo, e di tornare bambino, quando la pianura si copre di bianco. Anche se è passato, non lascerò che abbia il sopravvento sulla mia memoria, non lascerò che abbia modo di cancellare quello che è stato. Mi fermo, cullo la mia mente, rilasso il mio cuore, chiedendo al tempo di tornare indietro, di farmi rivedere quel vecchio film della vita. Quel tempo, anche se passato, sarà presente. Ecco, questo è un piccolo saggio di Beppe, scrittore, ma poi ne daremo qualche altro. Adesso parliamo di Beppe, musicista. Allora, bene. Beppe, tu hai sempre avuto la passione per la musica? Diciamo che da quando avevo 6 anni, sì. Dai 6 anni in poi mi sono innamorato di questa chitarra e che ci ho sempre comunque giocato. Fino a quando non ho raggiunto quell'età consapevole di decidere di andare a fare qualche corso, e di usare quelle 6 corde. Quindi quando hai cominciato a... Beh, sei andato logicamente a scuola, no? Sì, ho fatto dei corsi. Una volta, ancora 30 anni fa, non c'erano tutte queste scuole di musica a disposizione, quindi ho fatto quei corsi in privato, veloci per imparare solo lo stretto necessario per imparare il giro di Do. Praticamente che con il giro di Do si fa tutto. Tu so che componi anche musica, per cui devi avere una certa conoscenza della musica. Conoscenza acquisita. Però mi piaceva l'idea di poter scrivere musica e parole di un qualcosa che mi appartenesse, qualcosa di mio. Comunque la musica per te, sentiamo, la musica da sempre è stata la vera terapia contro il malessere quotidiano. Quante volte ci troviamo con il capo chino e la testa tra le mani assorti nel vuoto? Sfilano pensieri e problemi di cui non troviamo la soluzione. La musica ci aiuta, sì, ci aiuta a superarli. Spesso viviamo con lo stomaco in soqquadro e per le pene del cuore. La musica ci spinge a oltrepassare il dolore, ci restituisce il sorriso. La musica va vissuta ogni giorno. Chi suona uno strumento oppure canta può godere delle soddisfazioni di trasferire in un pentagramma le proprie apprensioni. Chi non ha questa fortuna può riparare con i dischi. Non c'è medicina più rilassante che ascoltare il brano preferito ad occhi chiusi. Il tempo dell'esecuzione è solo nostro. Per un breve istante lasciamo fuori dal mondo le nostre tribolazioni e ci godiamo le melodie. La musica è la cura migliore contro le inquietudini. La musica è sentimento, è consolazione, è speranza, è vita. Cara amica, quando ti senti preda di brutti pensieri, soffermati sulle note di una mia musica. Sentirai la carezza frusciante del vento d'aprile e della mia mano che cancellerà il buio dal tuo cuore. Bellissimo. Credo che sia tutto scritto in queste, certamente, poche sì, sia sono, tutto qui. È un sì, concentrato di vita, di vicissitudini. Di... Ci dà il senso di come ami tu la musica, speranza. Come la senti. Ecco. Io credo di essere tra i tanti che amano la musica. E basta solo guardare i supermercati, i banche. Cioè, la musica è ovunque. E dal momento in cui non c'è, dal momento in cui sparisce, si sente vuoto. Si sente che manca qualcosa. Si sente che manca. Ma allora, facciamo un piccolo excursus. Quando è che hai cominciato a comporre la prima canzone? La prima canzone che ho fatto si intitola I giorni di ieri, che poi andremo anche a sentire. Sì. E l'ho scritta quindi quando avevo 17-18 anni. Quindi tu hai composto le parole e anche la musica? Sì, sì. Forse prima la musica. Ah, prima la musica? Forse prima la musica, perché comunque scoprivo i vari giri di note, i vari giri, e poi le parole, perché avevo voglia di dedicare qualcosa a mia madre. Ah, sì? Sì. E quindi l'hai dedicata a lei questa canzone? Ho dedicato il testo, l'ho dedicato ai miei ricordi, e soprattutto concludo la canzone dedicando il mio particolare pensiero a mia madre e a quello che mi dava lei quando io ero un po' più piccolo, a quello che mi trasmetteva ma con piccoli gesti quotidiani. Allora, vogliamo ascoltarla? I giorni di ieri di Beppe Fantin, e canta Beppe Fantin, logicamente. Sì, sempre. Guardare com'era Ah, se ti sente Baglioni qua. Dirà ecco. Qui vogliono farmi le scarpe. Mm. Sì. Hai la voce un po' baglioniana. Diciamo che è una voce abbastanza roca, quindi assomiglia un po' comune, ma è uno dei tuoi preferiti, Baglioni? No, non è uno dei miei preferiti, però è un cantante che ho ascoltato tanto. Ah, ho ascoltato tanto. Beh, adesso dei cantanti italiani, perché visto che oggi si parla solo di americani, a me piacciono quasi tutti i nostri cantanti, chi per una canzone, chi per un'altra. Non ho mai detto ho un cantante che mi piace di più. Se devo essere, mi piace Lucio Dalla perché ha scritto certe canzoni che mi sono rimaste dentro, perché comunque ricordano gli anni più belli della mia vita, che secondo me. Ad esempio? Anne Marco di Lucio Dalla, L'anno che verrà, perché mi ricorda, la mettevamo su in quelle feste che facevo durante gli anni 80, che quindi avevo nei miei 15 anni. E poi mi piace Cocciante, perché anche lui ha scritto delle canzoni stupende. E Baglioni, sì, diciamo che sono tutti nello stesso gradino. Sì, diciamo che Cocciante è un grande musicista. È un grande musicista, sì. È un compositore. Sì. È chiaro che poi, ascoltando le mie canzoni, uno dice hai copiato. No, o comunque l'originalità è Claudio Baglioni. No, la voce, anche perché c'è il testo dietro, che chiaramente è proprio identifica esattamente la situazione. Esatto. Identifica. Per chi sa ascoltare il testo. Sì, occorre una doppia attenzione, diciamo. Ecco. Allora, questa è stata, i giorni di ieri è stata la tua prima canzone. Sì. Poi che cosa, come sei proseguito? Da lì ne sono nate altre, ho continuato comunque a scrivere, poi alcune sono state perse, alcune sono nel cassetto, e fino al, diciamo, al 92-93, quando ho conosciuto il ragazzo che poi avrebbe fatto tutti gli arrangiamenti moderni per quegli anni là, perché stiamo parlando degli anni 90. E ha preso in mano le mie canzoni, siamo andati in uno studio di registrazione serio e abbiamo registrato nuovamente I giorni di ieri, e lì abbiamo aggiunto Uomo, Sogno di un sogno e altre canzoni, altre tracce che fanno parte dei miei dischi, sì, del mio repertorio. Ma ne hai inciso tanti dischi? Dischi ne ho fatti tre. Questo cos'è, il primo, il secondo? Questo che ti ho portato, sì? Jazzy, è un mix di vari dischi. Ah, ho capito. Ho fatto la masterizzazione di varie tracce presi da questi CD. Quindi la seconda canzone che ascolteremo è tratta sempre dal primo disco? No, Uomo è una canzone che è stata scritta nel 96, ed era all'interno di un album che si intitolava Sogno di un sogno. Ho capito. Uomo è una bella storia di un pescatore, quindi vale la pena anche di ascoltarla. Ascolta, queste canzoni tu come le hai fatte ascoltare al pubblico? Hai fatto dei concerti, qualcosa? Ho fatto 25 anni di attività, il piano bar adesso è il cantante, uno che canta con le basi. Noi si suonava dal vivo, e all'interno di canzoni note mettavamo anche le nostre, e riuscivamo anche a vendere lì, perché lì i CD alla fine venivano venduti nelle nostre serate di musica dal vivo. Quindi mitico piano bar, nei negozi ruggenti. Esatto. A parte che una volta il piano bar era un pianoforte che suonava, solo il pianoforte che suonava delle canzoni dell'epoca. Ho fatto anche quello, ho fatto parecchi anni di solo pianoforte e voce, pianoforte e basta. E cosa cantavi? Sempre le tue canzoni o hai cantato anche canzoni? Non di altri potevo, cantanti? Non sarei nemmeno stato in grado di fare un repertorio completo solo di canzoni mie, quindi ci mettevo dentro le canzoni dei miei idoli, quindi... quelli che dicevamo prima, quindi quella Baglioni. Quelli che ti venivano più spontanei, cioè quando... Allora, io quando mi siedo nel pianoforte e creo quell'intimità, e l'ho anche scritto, c'è un racconto del libro che ne parla, crea proprio un'intimità tra me e la tastiera del pianoforte. E lì io posso prendere una canzone e andare avanti anche un'ora. La canzone comunque rimane quella, però ci aggiungo degli arrangiamenti, delle variazioni. Varie, ecco, sì, sì. Però mi piace cantare le canzoni dei cantanti che ti ho detto prima. Le cover, sì. le cover, sì. E ci mettevo anche le mie. Però io quando leggo le poesie ho degli autori che si confanno di più al mio modo di essere, no? Certo. Ecco, tu ad esempio, quando canti una canzone, dove ti senti, entro quale cantante ti senti più portato, ti senti più vicino? Allora, in questo caso proprio Baglioni, perché comunque è un cantante che come me ha cercato di descrivere tanto l'amore, i ricordi, i profumi, gli odori, tutto quello che comunque... Le vicende della vita. Le vicende della vita, quindi si avvicina molto, molto a lui. A me piacevano di più le prime, adesso quelle di adesso mi piacciono un pochino meno. Sì, è un parere abbastanza comune questo, sì. Anche perché hanno marcato un'epoca che era molto diversa dalla presente, diciamo, forse. Sì. Anzi, sicuramente. Esatto, direi. Se lui facesse le canzoni, scrivesse le stesse canzoni che scriveva 30-35 anni fa, non avrebbe lo stesso successo. Lui è stato bravo perché ha saputo comunque aggiornarsi con i tempi. Il timing, giustamente. Poi Antonio, qualche domanda da fare? Ma no, stavo pensando appunto a qual è stata l'evoluzione e che hai riscontrato, diciamo, negli anni, dal punto di vista musicale proprio, l'evoluzione dei gusti, la trasformazione, la regressione, se vogliamo, in certi casi. Beh, evoluzione direi che ce n'è stata abbastanza, cioè nel mio piccolo non c'è stata tutta questa evoluzione. Ho sempre comunque cercato di scrivere le emozioni che provavo in quel momento, quindi... dettate anche dalla vita, quindi certo. Un conto è scrivere una canzone come I giorni di ieri che parla dei miei 16 anni e un conto è scrivere una canzone come Sogno di un sogno, che se vuoi poi sentiamo, certo. Che vista la vita che stavo facendo in quel momento, quindi stiamo parlando del 2002-2003, ho preferito scrivere un qualcosa che mi riportasse dentro un sogno per stare bene. Giustamente. Perché poi svegliato sì. la realtà era un po' diversa. Invece l'uomo quando l'hai scritto? Nel 96? Uomo, stiamo parlando del 1996, sì. Uomo. E quindi, sì, adesso noi penso che sarebbe opportuno che ci ascoltassimo proprio Uomo. Uomo. Ricordi lontani fra fra le rughe del viso, dove ogni tanto appariva un sorriso. E quante notti passate a pesca e sonno e fatica per poter mangiare. E lunghi autunni senza mai riposare. E lunghe estati sotto il sole a sudare. La primavera che dava il calore dopo un lungo inverno di freddo polare. E quante notti passate a pensare su cosa fare domani, sembrano giorni così lontani. Pensate a quando non ci sarò più e ti ritrovi adesso solo tu. E piangi e pensi alla tua vita e chissà quando sarà finita. Ho vita come sei dura perché hai portato via tutto scordandoti di me. Ho vita, dimmi, ce l'hai con me. Non ho più niente, ho solo te. Ho vita, dimmi. Bene, bene, siamo di nuovo in studio. Adesso cambiamo un momentino argomento e torniamo a Beppe Poeta. Allora, leggiamo marzo, che visto che è appena passato, la primavera, incredibile stagione che risveglia la natura donandole nuovo splendore, nuovi profumi, nuove speranze, nuovo calore. Marzo, con le giornate frizzanti, con le rive macchiate di timide viole e vezzose mimose e primule gialle. Marzo mi ha dato la gioia di ritornare ad essere padre di quella dolcissima, birichina principessa di nome Sara. Marzo, con le piogge altalenanti, le corse impazzite dei nuvoloni che precedono i temporali e i tuoni capricciosi. Marzo pazzo, forse una volta, quando i proverbi erano il frutto di antiche saggezze, perché le stagioni seguivano il ritmo regolare di miracoli concepiti per la riflessione dell'uomo. Marzo, di maglioni di lana messi via, di camicie fresche e colorate che spuntavano come fili d'erba, di foulard che volavano come il vento che ci accompagnava in lunghe camminate in riva al mare. Marzo, di serate all'aperto e fragranze di pollini che cercano la vita in fazzoletti di terra e nei bordi dei marciapiedi. Marzo ritorna a darci le speranze di un tempo, a far palpitare i cuori umani sempre più freddi, sempre più pietre. È una Antonio, vuoi leggere ogni stella? È una constatazione. La leggiamo dopo, ogni stella. Pensavo di leggere invece i cieli azzurri del nord-est si stanno allontanando. Benissimo. Immensi e freschi, limpidi e trasparenti. I cieli azzurri del nord-est li vedevo così, solo quando decidevo di lasciare la periferia e le zone industriali per raggiungere le colline vicine a Treviso. Lontano dai rumori assordanti della città e soprattutto lontano dai camini delle fabbriche, dagli addetti comunali che tagliavano gli alberi, da quelli che asfaltavano strade e viottoli, quelli che scoperchiavano il cemento per l'ennesima riparazione di qualche tubatura saltata. che caos di macchine, autobus e martelli pneumatici. Questo Treviso che si svegliava con l'afa del mattino, densa fino a creare un effetto simile a nebbia appiccicosa. Questa Treviso che accoglieva e accoglie pendolari e commessi. Questa è Treviso che ancora non conosce i cieli turchesi delle alture vicine. Colori accesi di sana natura che permettono a quell'azzurro di essere trasparente e limpido. Era stupefacente percorrere quelle strade e tornanti per poi arrivare in cima al Monte Cesen, dove i panorami diventavano infiniti, dove da lassù si vedeva la calura torrida pressare sopra la città. Ricordo che, come ora, quel monte, nella notte di San Lorenzo, era un punto di ritrovo di immense compagnie e di giovani innamorati. Dal buio più scuro si potevano vedere le stelle cadenti tra le voci di persone che si udivano ma non si vedevano. Queste serate limpide di agosto regalavano forti emozioni. Ci si stendeva a terra con il naso all'insù e il film iniziava. Sguardi attenti verso i confini celesti per scorgere le scie luminose che oltrepassavano la nostra atmosfera. Ho respirato quell'aria fino a riempirne i polmoni, quasi a voler fare il pieno da smaltire una volta scesi e tornati nell'umido quartiere. Quei cieli, per fortuna, esistono ancora, ma bisogna fare sempre più strada per vederli nel pieno del loro splendore. Si devono percorrere tragitti che portano verso le colline e continuare fino ad arrivare ai confini delle nostre belle Alpi. I cieli azzurri del mio nord-est esistono ancora, ma si stanno allontanando sempre di più, sempre di più. Bella, bella. Adesso scrivi. Sì, sì, sto pensando, ho buttato giù qualche cosa per dare vita a un nuovo libro. Però è un po', diciamo che non voglio dire niente per scaramanzia. Hai già cominciato però a fare qualcosa. Ci sono delle idee. L'idea è già iniziata ed è anche già finita. Adesso si tratta solo di trascrivere. Ho capito. E invece ti dedichi di più alla musica, a quanto ho capito? Mi sto dedicando in parallelo alla musica, quindi appena posso, appena c'è l'occasione, prendo la mia strumentazione e vado a suonare. È sempre una bella emozione. Allora, prima stavamo parlando appunto come hai pubblicato queste tue canzoni, come le hai fatte sentire al pubblico, cosa facevi, dei concerti? Facevo dei concerti, facevo delle interviste in radio e c'erano ancora quelle radio che ti ospitavano per dare spazio ai nuovi emergenti, quindi ne approfittavamo, e poi c'erano soprattutto i concorsi, concorsi come la gondola, d'oro, sì. La fronda d'oro, Castrocaro, Saremo Giovani, che io comunque mi sono sempre presentato con canzoni mie. Ah, ho capito. Sì. E com'è andata la presentazione a Sanremo Giovani? Beh, e a Castrocaro? Sono sempre dei traguardi abbastanza difficili da raggiungere, soprattutto quando sei, diciamo, quando hai un'etichetta indipendente. Lì ti ritrovi a dover gareggiare con delle persone che hanno etichette molto più potenti, quindi è molto difficile emergere. Per cui spesso e volentieri mi sono sentito dire che di Baglioni ce n'è già uno, quindi mi sono ritrovato di nuovo con la mia valigia pronto per tornarmene a casa. Però sono esperienze belle, sì. Esatto, sì. Sono esperienze belle, sì. Bene, adesso cosa ci ascoltiamo di canzoni tue? Io direi Il suono della natura, che è una canzone che tra l'altro era stata scritta, è un pensiero, Jesse, c'è molta musica ed è un breve pensiero che poi era stata chiesta anche dal gruppo dei Nomadi, che io ho rifiutato perché comunque era una canzone che, visto che piacevano a loro, pensavo potesse piacere anche a un pubblico più vasto, me la sono tenuta, però forse se gliela davo, ecco appunto, era meglio. Col segno di poi, diciamo. Stavo dicendo, sì, però diciamo che rimane sempre un tesoro mio, quindi una tua creatura, diciamo, dai. Una mia creatura, ecco appunto. Vabbè, allora ci ascoltiamo Il suono della natura. Bene. Thank you. cielo azzurro si risplende in quel lago addormentato. È l'inizio della mia giornata gioiosa, assieme agli alberi e ai fiori mi sono svegliato. Il mio sguardo che si fissa verso la grande pianura, penso che la vita è bella e comincia l'avventura. Canta il vento, urla il mare, suonano i campi di grano e ne sento anche l'odore, vola in alto quel gabbiano. E continuo questo viaggio in mezzo alla natura, ma le morte, vento e freddo non mi fanno più paura. Ci sono giorni in cui mi chiedo chissà come si farà ad invecchiare e non ricordare quel che è stato e che sarà. Ci sono attimi di vita che non sono dei migliori, ma possiamo superarli senza dire è finita. Canta il vento, urla il mare, suonano i campi di grano e ne sento anche l'odore, vola in alto quel gabbiano. Canta il vento, urla il mare, molto bella questa canzone, mamma mia, proprio sembra una dei nomadi. è una parentesi di un pensiero di vita, ma questa. Molto molto bella, molto è molto intensa, sì, sì, molto intensa. E comunque la prossima quale sarà, intanto così diciamo, è quella, la prossima sarà Sogno di un Sogno, che è appunto una canzone, sì, sì, che in una realtà abbastanza difficile è sempre meglio dormire un po' di più per fare sogni belli. Esattamente. Esatto. Allora adesso che cosa musicalmente cosa stai facendo di bello? No, musicalmente sto... Fai concerti? Non no, so, fai concerti no, sto scrivendo canzoni, sto preparando un... qui ne parlo perché tu me l'hai chiesto, un tributo a Baglioni, e quindi è un progetto abbastanza ambizioso. Impegnativo. E impegnativo, sì. Un progetto che coinvolgerà circa 8 strumentisti, un quartetto d'archi e 3 coriste. Poi... è tutto da pianificare. Sì, in che cosa consiste questo progetto? Portiamo in giro le canzoni appunto di Baglioni, un tributo proprio legato alle sue canzoni. Quindi fate tutte le sue canzoni? Creare uno spettacolo, uno show proprio dedicato a lui. Quindi farete le prime le canzoni anni 70, faremo 80. Un percorso di tutti gli anni, tranne gli ultimi. Che a me sinceramente non piacciono più di tanto. Sono meno comprensibili e anche un po' più impegnative dal punto di vista proprio di capirle, di saperle, sì, ascoltare. A me piace tanto Porta Portese. Porta Portese è una canzone gloriosa. Porta Portese è il periodo glorioso degli anni 70. Ma anche Strada Facendo. Strada Facendo dell'82, sì. è una... Anche Avrai deve essere... Avrai l'ha scritta nell'81. Sempre sì. Periodi molto diversi, dalla normale, dalla nostra, diciamo, esatto. Così, temperie sociale attuale, insomma, ecco. Comunque, insomma, adesso avete questo progetto che penso che sia un grosso progetto. È un progetto che comunque solo l'organizzazione durerà più di un anno, quindi ce n'è di lavoro. Sì. Ma l'avete già cominciata? Abbiamo già cominciato la scelta dei brani, adesso vediamo il ritrovo, la scelta dei musicisti, faremo delle audizioni, poi si entrerà in sala prove e daremo inizio agli arrangiamenti. Però se non ricordo male, tu mi parlavi anche che tempo addietro avevi una scuola di musica. Avevo una scuola, sì, che ho chiuso qualche anno fa. E una scuola... cosa insegnavate? Tutti gli strumenti? Era una scuola di indirizzo moderno, quindi tutti gli strumenti che non sono all'interno di una banda o all'interno del conservatorio. Quindi chitarra elettrica, pianoforte e tastiera. E, oltre agli strumenti classici, sassofono, tutti strumenti. Quello che sarebbe necessario fare nelle scuole, per esempio. Sì, esatto. Perché siamo un popolo che chiaramente rispetto ad altri che hanno meno tradizioni musicali, da noi l'educazione musicale è molto contenuta, per se non dire quasi a zero. Se noi andiamo a vedere i numeri. Esatto, se andiamo a vedere i numeri è pari a zero. E questo è uno dei grossi, ci vorrebbe, limiti. Sì, ci vorrebbero delle leggi nuove che dessero la possibilità ai ragazzi di studiare uno strumento moderno dare una qualifica, un diploma. Perché altrimenti rimane sempre la musica classica e quindi è limitata però anche agli abitué, un po' una elite, insomma, un'elite, sì, stiamo andando avanti un po' con tutto tranne che con la musica, a mio avviso, però bisogna invertire, esatto, bisogna invertire diciamo il percorso, è solo il mio pensiero, sì. E a proposito di musica volevo eventualmente leggere un breve racconto. Palcoscenico. Mentre salgo le scale ho paura, tanta paura. Un intreccio di riflessioni che mettono in confusione la mente. Salgono i dubbi. Ho paura di sbagliare accordo. Non ricordo le parole delle mie noiose canzoni. Eppure dovrei avere confidenza con quello che mi circonda. Sopra il pianoforte uno spartito e un lume acceso. Appena mi siedo entro in intimità con i tasti bianchi e neri, mentre dal monitor riconosco la mia voce roca. La tensione si placa. L'abitudine mi fa chiudere gli occhi mentre scorre il testo malinconico, autobiografico. Sì, ora mi sento a casa. Non tremare, voce, non tremate, mani. Un faro di luce bianca, calda, punta la mia anima. Mi sento finalmente bene. Ora posso cominciare a raccontarmi. È ora di regalare un sorriso. Con lo sguardo fisso sul pentagramma, sfioro con le labbra il mio microfono. Tocco il cuore di chi ha capito la mia musica, la mia vita. Colgo gli attimi di gioia e cancello le delusioni che non devono influire sulle mie canzoni, anche se qualche volta non posso fare a meno di descriverle, di cantarle. Mentre dalla bocca escono le note penso a lei e la immagino seduta in quel posto vuoto tra gli spettatori. La vedo in ogni luogo, in ogni platea, nell'istante in cui apro gli occhi. Non temo nessuno. Qui ho il mio palcoscenico, il mio auditorium al completo, la mia libertà. Posso accarezzare i sogni senza essere frainteso. Posso illuminarmi d'immenso senza che qualcuno me lo neghi. Posso sentirmi adulto e bambino. Sì, quel bambino che gioca con le stelle del firmamento, che canta con i fiocchi di neve nelle notti ammantate di bianco. Ora sono nella mia casa. Molto carino, eh? Sì, questo quando l'hai scritto? Scusa, Gesì? Questo quando l'hai scritto? Fa sempre parte del libro, anche se il tempo è passato. E, ho voluto comunque scrivere una sensazione che penso provino un po' tutti quelli che, come me, fanno musica e la fanno di fronte al pubblico. Quindi la paura di sbagliare l'accordo, la paura di non ricordarsi le parole, anche se le canzoni sono mie. Che poi svanisce per incanto. Diciamo. Come per incanto svanisce. E poi ho descritto quel posto vuoto che comunque c'è sempre. C'è sempre, certo, qualcuno che manca e che vorresti fosse là. Sei molto sensibile, diciamo, vero? sì, hai molta, sì, molta, sì, molta credo sensibilità. Una persona, sì, abbastanza, anzi, molto sensibile. Allora andiamo, sì, avanti con le canzoni e ci ascoltiamo Sogno di un sogno. Sogno di un sogno. Stanotte ho fatto un sogno e non accade spesso di stare così bene come sto adesso. Mi son sentito forte e son volato via col pieno di energia in viaggio nella fantasia. Eccoci di nuovo in studio e vogliamo ricordare che le letture intense e pregnanti che abbiamo fatto sono tutte tratte dalla raccolta, dal libro Anche se il tempo è passato, racconti, emozioni, canzoni. E l'ultimo, presumibilmente racconto, adesso vediamo un po' con il tempo, si chiama Angelo. Quante volte ti ho sognato, chiamato, cercato, quante volte solo nel buio della mia stanza ho chiesto il tuo aiuto, tante, troppe volte, eppure ci sei, lo percepisco, sei nei sorrisi di chi incontro, sei nelle notizie che danno allegria alle mie giornate, nelle corse dei miei figli, nei loro occhi, sei nella giornata che mi sveglia e nel sole che mi riscalda, nella neve che scende lenta, nel calore della casa. Sei nel cuore che batte per lei e nei pensieri. Sei in macchina con me. Quando sono stanco gli occhi mi si chiudono. Sei nelle mie tristezze e nelle mie gioie, nella mia voce e nel mio silenzio. Ci sei, lo so. Ci sei e sei per noi, poveri cristi, convinti di essere invincibili e invulnerabili. Ci sei, ci ami, ci perdoni. Perdoni la nostra arroganza, la nostra presunzione, la nostra superbia. Ci sei anche per chi in te non crede. ci sei e non te ne andrai mai. Ci sei. Il tuo volo radente conforta la disperazione che urla nella foresta dei dolori. Ti avvicini, tendi la mano protettiva che, come rugiada del mattino, brilla nelle ferite. Nel cupo baratro della solitudine, il fruscio delle tue ali lascia intravedere la luce della speranza che porta alla strada dell'amore. Mai sordo alle invocazioni di aiuto, sorreggi le labili strutture delle barche alla deriva per riportarle nel seno tranquillo della baia amica. Bello. Beh, penso che non facciamo in tempo a leggere l'altro, che non faccio in tempo perché volevo fare delle domande, per dire la verità. Ma hai detto che suoni il pianoforte e chiaramente sei autodidatta, no? Io ho fatto il 9 anni di canto, un bel corso approfondito di canto moderno, e chiaramente nel canto ho dovuto scegliere uno strumento che mi accompagnasse, complementare, e ho scelto il pianoforte perché già la chitarra l'avevo acquisita, era acquisita. Sì. Quindi diciamo che adoro accompagnare le mie canzoni più con il pianoforte che con la chitarra. Che è uno strumento completo, naturalmente, è uno strumento straordinario. Poi suoni anche la tastiera. Suono la tastiera, però sempre il pianoforte prima, perché mi piace da morire. Io in ogni mio attimo di tempo libero ho le mani sopra la tastiera. Quindi tu hai a casa il pianoforte o la tastiera? Ho il pianoforte, ho la tastiera, ho una marea di chitarre, quindi... Perché quindi ti piace? C'è una dovizia di strumenti, diciamo. Sì, mi piace proprio. La musica è un linguaggio universale, una cosa straordinaria. Anche a chi ignora completamente, diciamo, il pentagramma, eccetera, dà delle emozioni che sono assolutamente straordinarie. Infatti lui nel grande palco della musica ci possiamo raccogliere tutte le razze, ma alla fine il linguaggio è unico. È unico, è un linguaggio, certo. Veramente universale. Pensieri, razze, religioni, tutti, però il linguaggio è sempre quello. Ogni paese ha il suo tipo di musica, la musica sempre classica è universale, logicamente, ma le musiche così leggere, ogni popolo ha la sua. Certo, però è pur sempre musica. Sempre musica. E sono sempre espressioni specifiche di un dato popolo, quindi vanno rispettate, vanno accettate naturalmente. A me piace molto la musica messicana. La musica latinoamericana, diciamo, ecco. Ma sicuramente, però, a differenza di un pensiero, può piacere o no, però... Oddio, è la musica, no? È latinoamericana, musica. È una musica un po' particolare. Anche abbastanza gioiosa, diciamo, ecco, esprime quella gioia di vivere e compagnia. Che tante volte in mezzo così a tante tristezze che ci sono nella vita, un po' di allegria, diciamo. Bah, sì, poi si va a giorni. Io ci sono dei giorni in cui mi piace ascoltare il rock degli anni 50, che sono sono dei pezzi stupendi. E non sono un amante della musica classica, ma se devo ascoltarmi l'adagio di Albinoni, ben venga. Sì, certamente. Mi piacciono da morire. Io per esempio sto leggendo in questi giorni la vita di Mendelssohn e guarda, proprio mi sono sprofondata nel libro. Mi piace tantissimo, che parla di tutti i musicisti, Chopin, di Schumann, veramente dei nostri padri, Beethoven, e quindi sono dei giganti della per musica, me veramente è un libro stupendo che ho letto. Io credo che siano proprio dei giganti della musica, come i pittori lo erano della pittura, perché adesso quadri così non lo fanno adesso più. Né musica né quadri, è stato un po' esaurita la vena, probabilmente, oppure c'è una trasformazione. Ma anche la poesia. Io apprezzo sempre le vecchie. Non riesco a capire cosa ci poteva essere, Antonio, nel vedere, due secondi, nel vedere come facevano costruire certe cattedrali. Ieri ho visto un documentario, come hanno fatto. Straordinario. Come facevano. Quindi adesso è così. Niente, bene, allora facciamo in tempo a ascoltarci un pezzettino di musica solo strumentale, sempre del nostro. I musicanti del re. Sì. I musicanti del re, un pezzettino, vediamo. Thank you. E rientriamo in studio per un saluto finale. Naturalmente ascoltare musica e parlare di sentimenti eccetera, uno starebbe qui anche tutta la notte, purtroppo abbiamo dei limiti temporali e dobbiamo così salutare. Com'è passata in fretta questa ora? Molto, però. Molto in fretta. Beh, sì. Noi rinnoviamo di nuovo gli auguri delle festività, per le festività pasquali a tutti quanti. Grazie Beppe di essere qui. Grazie a voi, grazie, è stata un'ora davvero piacevole, grazie, grazie mille. Ecco, e allora così come al solito questa sera con Antonio, con Beppe e con il nostro regista carissimo Eddie Deitch auguriamo a tutti una buona Pasquetta. Ciao! Ciao! Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.